Buonasera a tutte, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo sia in questa diretta Facebook. È partita con un piccolo ritardo, ci scusate, ma i mezzi tecnici a disposizione a volte sono fallibili. Forse sono un po' stanchi di tutti questi mesi di sovraccarico di lavoro. Il Circolo dei Lettori è molto, molto felice di ospitare e di contribuire a questo premio che è una vera sfida con la vertigine della pagina bianca, questo premio che si chiama Incipit, che appunto è per tutti coloro che partecipano veramente il confronto con l'inizio di un testo, di un racconto, che è sempre il momento più sgomentoso per qualunque scrittore. Quindi innanzitutto un in bocca al lupo ai semifinalisti che ci seguono in questa serie di incontri che abbiamo voluto dedicare a un modo e a un territorio da cui cominciare molto particolare, che però altrettanto essenziale, che è quello della lingua italiana, della nostra amata lingua italiana, per la quale abbiamo pensato di offrire sia al nostro pubblico, che spero ci segua numeroso perché sono incontri per i quali vale davvero la pena così buttarsi in questo affondo nella lingua, nell'italiano, in quella che è una grande miniera espressiva, e anche appunto per questi semifinalisti che affronteranno il tema dell'espressivo a partire dalla radice, che è quella appunto del dominio, del controllo e della compagnia della lingua italiana. Partiamo subito con Manuela Manera, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito di regalare a queste ascoltatrici, a questi ascoltatori e ai finalisti un'avventura nell'italiano, nelle sue difficoltà e soprattutto in quello che ha, in quello che ancora gli manca per affrontare il presente, le sfide del presente e di quello che siamo e di quello che saremo nel nostro futuro. Quindi un in bocca al lupo di nuovo ai finalisti di questo premio letterario, un augurio di buon ascolto a tutti coloro che ci stanno seguendo e cedo nel vero senso della parola la parola a Manuela Manera. Grazie. Grazie mille davvero alla direttrice Elena Leventhal, buonasera. Sono davvero molto contenta di essere qui, anche se lo confesso subito, uso sempre con un po' di disagio questo avverbio di luogo in relazione a uno spazio virtuale. Non posso nascondervi che avrei preferito condividere con voi uno spazio fisico, una bella sala colorata, una bella biblioteca, essere al circolo dei lettori. Però dobbiamo anche sforzarci di guardare l'aspetto positivo della situazione e ritrovarci online indubbiamente ci permette almeno di annullare quelle distanze che magari avrebbero reso più difficile, se non addirittura impossibile per alcune persone partecipare a questo evento che considero un'occasione preziosa di confronto e voglio davvero ringraziare con tutto il cuore il Circolo dei Lettori di Torino. ECM Biblioteca Archimedia, l'Istituto Italiano di Cultura a Barcellona per avermi invitata a questo evento, aver organizzato questo ciclo di incontri. E sono onorata di dare inizio proprio io a questo ciclo di appuntamenti dedicati alla lingua italiana, dal titolo proprio Cominciamo dall'italiano. Non posso nascondervi anche che sono emozionata perché ho l'opportunità di confrontarmi con un pubblico speciale, è stato già anticipato prima, questo pubblico formato dagli aspiranti scrittrici e scrittori che hanno partecipato al concorso letterario, che stanno partecipando al concorso letterario Incipit Offesi e che costituiscono un pubblico un po' particolare, no? Perché è già attento a come maneggiare la lingua italiana. E sono certa che lo fa con cura e attenzione. Io sono una linguista di formazione, mi occupo da 10 anni ormai, anche più, del tema lingua, società, genere, che poi con molta poca fantasia il titolo che ho dato a questo mio intervento di questa sera. Allora, quello che vorrei offrirvi è uno sguardo sulla lingua italiana contemporanea attraverso i cambiamenti che nella lingua italiana sono intercorsi e sono tuttora in corso a partire da questi ultimi 30 anni. Spiegherò poi perché ho scelto proprio questo lasso di tempo. Ovviamente non parlerò di tutti i cambiamenti, ma mi concentrerò su un aspetto specifico che non viene spesso considerato, che è appunto il genere. Cioè andremo sostanzialmente a vedere come e se è cambiato il modo in cui le persone sono nominate nella lingua. Perché proprio questa prospettiva? Perché nella mia esperienza anche chi per lavoro usa con attenzione, cura, competenza la lingua italiana spesso trascura proprio questo aspetto, non gli dà importanza. O forse non sospetta quale impatto possa avere il genere nella comunicazione. Però è mia abitudine in tutti gli incontri che faccio fare subito un po' di chiarezza sulle parole che vado a usare, perché mi piace predisporre uno spazio linguistico condiviso che sia accogliente, che sia privo di ambiguità, all'interno del quale possiamo poi spostarci liberamente, riuscendo a orientarci senza il rischio di perderci. Dunque vi chiedo di portare un po' di pazienza. Perché vorrei appunto spiegarvi il significato delle parole che andrò a utilizzare. Delle tre parole chiave che costituiscono il titolo del mio intervento, lingua, società, genere, genere è senz'altro la parola più scivolosa, perché è una parola molto attuale, ma anche tanto bistrattata. In questo periodo poi compare spesso anche nelle notizie, sui giornali, nei social, in riferimento a un importante disegno di legge in discussione al Senato. Ma nell'ultima decade la parola genere, nella sua variante inglese gender, è stata anche oggetto di forti strumentalizzazioni politiche finalizzate alla costruzione di narrazioni tossiche del tutto fuorvianti. Insomma, è davvero necessario chiarire prima di tutto cosa si intende con questa parola, essendo peraltro anche una parola di uso comune, no? Ricca di significato, di rimandi. La ritroviamo in diverse discipline, in tanti ambiti differenti. Però, prima di arrivare a spiegare la parola genere, per me è necessario fare un'altra tappa prima e chiarire anche che cosa si intende con lingua, perché è una parola che ha un significato apparentemente semplice, trasparente, ma non si può dare così tanto per scontato. E poi farò ancora una piccola riflessione sul rapporto esistente tra lingua e società. Ma alla fine abbiate fiducia, ve lo prometto, arriverò anche alla parola genere. Allora, quando si parla di lingua, possiamo fare riferimento a due aspetti. Possiamo riferirci alla lingua come sistema astratto, strutturato da un insieme di regole che ne assicurano il funzionamento e che semplicemente possiamo intendere con grammatica, no? L'insieme delle regole tali, seguendo le quali sappiamo come costruire una frase di senso compiuto, un testo che sia coeso e coerente, strutturare insomma le varie parole e così via. Però con la parola lingua noi possiamo anche riferirci non solo al sistema astratto, ma anche all'atto linguistico individuale, cioè la lingua intesa come lingua usata, parlata, quella che si invera, che si concretizza in uno specifico testo, in una data comunicazione. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questa duplicità, questo doppio livello, perché come vedremo tra poco, la lingua intesa come sistema astratto di regole ha una sua appunto regolarità e presenta anche un'ampia gamma di possibilità espressive. Dall'altro lato, la lingua come realizzazione linguistica soggettiva, come scelta individuale, non sempre rispetta la regolarità del sistema. E non sempre ne sfrutta le possibilità espressive. Insomma, abbiamo a nostra disposizione uno strumento potentissimo, una delle più potenti, grandi tecnologie mai inventate dall'essere umano, la lingua. La usiamo correttamente? Conosciamo davvero il funzionamento della lingua italiana? A queste domande ne aggiungo un'altra, giusto per complicare un po' le cose. In che rapporto è la lingua con la realtà? Questa domanda la pongo a questo punto del mio intervento, quindi in uno stadio abbastanza iniziale, anche perché voglio chiarire da subito perché le parole non sono solo parole e per sottolineare che anche quando ci occupiamo di altro o di problemi, come si sente dire, no? Ben più importanti, comunque comunichiamo in qualche modo necessariamente. Allora diventa importante avere la consapevolezza di come e cosa stiamo realmente comunicando. Però non voglio allontanarmi troppo dalla domanda, in che rapporto è la lingua con la realtà? Ora, non è questa la sede per trattare dell'annoso problema di quale tra i due poli, lingua e realtà extralinguistica, sia quello determinante sull'altro. E forse non è neppure fruttuoso porre la questione come se si trattasse di elementi in contrapposizione tra loro, come se uno potesse avere la meglio e vincere sull'altro. Perché il rapporto tra mondo e lingua, a ben vedere, è un rapporto simbiotico in cui le varie dimensioni, realtà extralinguistica e lingua, sono tra di loro fortemente intrecciate, si influenzano, si alimentano continuamente a vicenda. Però voglio spiegarmi meglio attraverso un paio di esempi. Prendiamo la parola femminicidio. Viene registrata nel 2008 nel dizionario dei neologismi Treccani. In realtà si affaccia nel panorama giornalistico italiano sin dal 2000, dal 2001. Diventa man mano più utilizzata, oggi è assestata all'interno della nostra comunicazione, è entrata nell'uso comune e indica un fenomeno specifico, indica un fenomeno che ovviamente nella realtà esisteva già prima degli anni 2000, prima che avessimo nella lingua italiana questa parola, ma che ora, grazie proprio a questa parola, noi riconosciamo e descriviamo con più precisione, inquadrando questo crimine dentro una certa cornice discorsiva, sostanzialmente mutando il contesto socioculturale, prendendo più consapevolezza del fatto che la violenza di genere è strutturale nella nostra società e non è riconducibile a un episodio biografico individuale, abbiamo accolto una parola, femminicidio appunto, capace di indicare con più appropriatezza esattamente queste riflessioni, esattamente questa nuova consapevolezza. Quindi quello che prima, in alcuni giornali ancora adesso, anche se non dovrebbe, ma quello che prima era definito raptus di gelosia, dramma per troppo amore, delitto passionale, poi ricordo che aveva anche un rimando nel nostro codice penale, no? Con il famigerato delitto d'onore cancellato solo nel 1981. Ecco, tutte queste espressioni non dovrebbero più esistere, perché vanno a indicare un fenomeno che oggi è riconosciuto come femminicidio. Quindi non abbiamo soltanto cambiato le parole, ma abbiamo cambiato anche il nostro sguardo. Vi faccio ancora un altro esempio. Questa volta parlo di patria potestà, che è un'espressione presente nel nostro diritto di famiglia fino al 1975, insieme a un'altra bellissima espressione, potestà maritale. Dal 1975 diventa potestà genitoriale fino al 2013, quando viene ulteriormente corretto in responsabilità genitoriale. Un bel salto, no? Da patria potestà a responsabilità genitoriale. Questo mutamento linguistico riflette certamente un cambiamento di mentalità, però al tempo stesso lo supporta. Quello che voglio dire è che ogni volta che noi sentiamo, che leggiamo responsabilità genitoriale, nella nostra mente si fa strada e si rafforza un'idea di relazioni familiari molto diversa da quella associata all'espressione patria potestà. Esattamente come l'uso della parola femminicidio non ha solo una funzione descrittiva, ma ci spinge a prendere atto del fatto che il problema della violenza contro le donne è un problema sociale e non individuale. Da questi esempi si intuisce che anche noi, in quanto parlanti, abbiamo una grande responsabilità nello scegliere in modo curato le parole, perché le parole che scegliamo non solo testimoniano come noi vediamo il mondo, ma veicolano idee che influenzano lo sguardo altrui. Allora, in sintesi, per rispondere alla domanda, che rapporto c'è tra la lingua e il mondo? Io direi così, io direi che la lingua rispecchia le esigenze comunicative di una comunità in un dato momento storico e si intreccia con il contesto socioculturale nel quale è usata. Dunque, se c'è una nuova necessità da parte di una comunità di parlanti, avremo sul piano della lingua delle spinte al cambiamento, che nient'altro sono se non il rispecchiamento sul piano della lingua di una volontà di cambiamento che interessa la realtà sociale, la realtà culturale, la realtà politica. Queste proposte di innovazione linguistica possono affermarsi come no, possono scomparire dopo poco tempo, oppure possono continuare a vivere magari in modo carsico per diversi anni, per essere poi infine accolte da un numero sempre maggiore di parlanti in concomitanza di un mutamento storico o socioculturale. Se queste innovazioni risultano poi condivise e usate dalla maggior parte della popolazione per un buon lasso di tempo, allora si assestano all'interno del sistema linguistico. Perché fare tutto questo ampio excursus? Perché, come vedremo, quando si parla di genere, ci sto arrivando, quando si parla di genere, quindi in riferimento alle persone, a come queste sono rappresentate nella lingua, non si parla solo di grammatica, ma di società. Il genere è uno snodo di interconnessione forte tra realtà linguistica ed extralinguistica. Sono finalmente arrivata a spiegare il significato della parola genere. Ci ho messo un po' di tempo, ma l'avevo promesso ed ecco qua. Allora, la parola genere compare in diverse espressioni. Con la parola genere si può intendere il genere grammaticale, il genere biologico o sessuale, il genere sociale o gender, per dirla all'inglese, e compare anche nella formula identità di genere. Provo velocemente a spiegare molto in sintesi il significato di queste espressioni. Genere grammaticale è la categoria grammaticale in base alla quale ogni nome comune della lingua italiana è riconosciuto e classificato o come maschile o come femminile, guardando a come termina sostanzialmente la parola e considerando anche l'accordo morfosintattico, cioè in sostanza come si comportano, come si accordano le parole intorno alla parola oggetto di analisi. Genere biologico o genere sessuale è definito dall'insieme dei caratteri biologici, fisici, anatomici con cui si nasce. È il sesso determinato a livello cromosomico, genetico. Alla nascita veniamo identificate come femmine o identificati come maschi in base ai genitali. Talvolta ci sono casi di cromosomi o di caratteri sessuali che non rendono possibile una classificazione all'interno dell'opposizione binaria maschio e femmina, e allora parliamo di intersessualità. Genere sociale, invece, è quell'insieme di caratteri, ruoli, regole comportamentali, regole linguistiche, aspettative che ogni cultura e comunità associa a un genere biologico. Insomma, per farla un po' breve, se nasci femmina ti regalano le bambole, ti vestono di rosa, si aspettano che tu diventi casalinga, ballerina, maestra. Se nasci maschio ti regalano le macchinine, ti vestono di blu, si aspettano magari che diventi idraulico, calciatore, manager. L'identità di genere è il percepirsi, il riconoscersi come donna, uomo, altro, indipendentemente dal sesso anatomico o assegnato alla nascita. Insieme al sesso biologico, orientamento sessuale, ruolo di genere, è uno degli elementi che si combinano nel formare l'identità sessuale di ciascuna persona. Queste sono in modo estremamente sintetico le definizioni delle espressioni in cui compare la parola genere, che mi sembra che sia più che evidente ormai, se si lascia da sola diventa ambigua e scivolosa proprio perché ha un'ampia gamma di significati e a seconda del contesto di riferimento, quindi il contesto può essere quello grammaticale, biologico, sociale, psicologico, a seconda del contesto ha sfumature e implicazioni diverse. Adesso che ho spiegato un po' i significati della parola genere, possiamo rispondere a una domanda che ci riporta al titolo di questo incontro. Quando parlando ci riferiamo a una persona, in base a che cosa scegliamo il genere grammaticale con cui indicarla? Quando parliamo di una persona o ci riferiamo a una persona, il genere grammaticale riporta sul piano della lingua la sua identità di genere, indica, esprime l'identità di genere. Perché dico identità di genere e non genere sessuale o biologico? Perché oggi con l'espressione identità di genere ho a disposizione un'espressione più specifica, più idonea per spiegare il fenomeno che sto indagando, che è appunto la relazione esistente tra le parole, realtà linguistica, e le persone, realtà extralinguistica. Un po' come nel caso che ho citato prima di femminicidio, oggi ho una parola nuova che porta con sé un concetto complesso, utile a inquadrare con maggiore precisione e chiarezza il fenomeno oggetto di studio. Cosa ci dice la grammatica? Ci dice che quando parliamo di donne dobbiamo usare il genere grammaticale femminile, quando ci riferiamo, agli uomini dobbiamo usare il genere grammaticale maschile. Verrebbe subito da chiedersi le altre soggettività? Beh, la nostra società storicamente è stata e in parte ancora strutturata in un'ottica rigidamente binaria, dunque anche la nostra lingua rispecchia questo binarismo e riconduce le differenze all'interno di una opposizione maschile-femminile. Ci sono, tra un po', accenneremo a questo aspetto, ci sono dei tentativi per sperimentare un allargamento nella scelta dei morfemi flessionali. I morfemi flessionali sono, quelle desinenze, quella parte finale con cui finiscono le parole, e che veicolano l'informazione di genere e numero. Per cui se io dico ad esempio maestra, la finale mi sta indicando che il riferimento è a una donna, quindi mi porta insieme sia il significato del genere della persona a cui mi sto riferendo, sia appunto del numero. Ritornando alla regola base che ho enunciato poco fa. Se ci pensiamo, è una regola semplice e ampiamente assestata nel nostro sistema. Eppure, se sfogliamo i giornali o andiamo su internet o ascoltiamo le comunicazioni, insomma, a ben guardare non è proprio sempre rispettata. Spesso ci ritroviamo infatti casi in cui il riferimento a una donna, soprattutto se in ruoli apicali o considerati prestigiosi, viene usata una nominazione maschile. Perché talvolta viene trasgredita questa regola, che oltre ad essere una regola ampiamente assestata e anche rispettata in molti casi, pensateci, in riferimento agli uomini non sono mai, non si usa mai in riferimento agli uomini una parola declinata al femminile, e anche in riferimento alle donne, in realtà ci sono tante parole che utilizziamo correttamente declinate, no? Diciamo cameriera, commessa, infermiera, maestra e così via. Allora, è sempre estremamente interessante analizzare gli errori, tra virgolette errori. Con questa parola indico le trasgressioni rispetto a quanto previsto da una regola. Perché questi errori rivelano sempre qualcosa, non sul funzionamento del sistema linguistico, inteso quindi lingua come sistema astratto, ma ci rivelano qualcosa su come viene impiegata la lingua in base alle proprie esigenze, o alle esigenze dettate dal contesto in cui ci si trova. In particolare, la nominazione al maschile in riferimento alle donne è un errore che funge da spia linguistica e testimonia come nella nostra società sia ancora presente una asimmetria tra uomo e donna in termini di ruolo e di riconoscimento di competenze, professionalità, autorevolezza. Pensateci. Espressioni equivalenti a livello di sistema linguistico non hanno nell'uso lo stesso peso in termini di prestigio. Segretario e segretaria. Di solito segretario si pensa subito al segretario di Stato, la segretaria la si associa a ruoli amministrativi. Direttore e direttrice viene percepita un'asimmetria in termini di importanza. Il cubista e la cubista rimandano ad ambiti diversissimi tra loro ed è difficile che con l'espressione la cubista si pensi a un artista del cubismo. Però attenzione, queste asimmetrie non sono insite nel sistema linguistico, quindi nella lingua in quanto sistema astratto, non sono insite nella grammatica, ma nell'uso che si fa della lingua. E la scelta di usare certe parole solo in determinati contesti discorsivi, riferendole solo a certe mansioni, che fa sì che la loro carica semantica, cioè il loro significato, sia limitato entro stretti e rigidi confini. Se invece si usassero in modo paritario, simmetrico, tra l'altro rispettando le regole del nostro sistema grammaticale, ecco che proprio attraverso l'uso, direttrice e segretaria non suonerebbero meno importanti di direttore e segretario. Ricordo che i ruoli, le cariche, le professioni non sono concetti astratti, ma sono sempre incarnati, sono sempre rivestiti da una persona reale, che talvolta però sceglie, o forse è costretta a scegliere, di oscurare la propria identità di genere ricorrendo a una forma maschile, perché teme, altrimenti, a me verrebbe da dire una deminutio capitis, addirittura, no? Una perdita dei diritti, o quantomeno una perdita di rispetto e di riconoscimento del proprio ruolo, delle proprie competenze, della propria professionalità. Tutti questi argomenti, di cui oggi si sente parlare molto, anche grazie ai social, e che di tanto in tanto appaiono anche sui giornali, e addirittura arrivano ai palchi dei Festival Canori, sembrano molto recenti, molto nuovi, però in realtà sono stati indagati e studiati più di 30 anni fa. Ecco perché ho scelto proprio questo lasso di tempo dei 30 anni. 30 anni fa Alma Sabatini, siamo nel 1987, pubblica uno studio intitolato Il sessismo nella lingua italiana. Questo volume è accompagnato da un vademecum intitolato Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Questo vademecum, peraltro, è uno strumento assai pratico perché si ritrova anche online, presente in una colonna le forme sessiste, discriminatorie e nella colonna a fianco le proposte per riparare a questa discriminazione seguendo la grammatica italiana. Sono opere queste di Alma Sabatini nelle quali la studiosa da un lato mostrava, facendo appunto delle ricerche sui testi giornalistici, delle ricerche proprio sulla comunicazione degli anni Ottanta, e mostrava i tanti modi in cui nella comunicazione veniva e ancora oggi, peraltro, viene perpetrata la discriminazione di genere nei confronti delle donne. Dall'altro, però, aveva anche una pars construens, perché forniva una serie di soluzioni molto pratiche per evitarle, queste discriminazioni. Allora, a questo punto, possiamo chiederci se nel modo di rappresentare le persone sia cambiato il nostro linguaggio in questi ultimi 30 anni, tenendo presente che la lingua italiana, lo sappiamo benissimo, è una lingua viva e quindi in continuo movimento, e anzi, la sua stessa efficacia come strumento sta proprio nel suo essere malleabile ed duttile, nella sua capacità di modificarsi sulla spinta delle sollecitazioni portate dai nuovi contesti socioculturali. Cosa è cambiato in questi 30 anni? È cambiato il modo con cui si nominano e rappresentano le persone nella comunicazione in seguito alle indicazioni di Alma Sabatini, in seguito a un affermarsi sempre maggiore della presenza femminile in vari ruoli e professioni, in seguito a una riflessione anche in ambito accademico, che nel corso degli anni ha progressivamente ampliato il proprio sguardo, passando dall'analisi del sessismo linguistico nei confronti delle donne a una riflessione sul linguaggio di genere, fino ad arrivare oggi a parlare di linguaggio inclusivo. Nel 1987 Alma Sabatini indicava come forme corrette e da diffondere nell'uso, e qui cito, avvocata, rettrice, capitana, marescialla, direttrice d'orchestra, notaia, e potrei ancora ovviamente andare avanti. Considerando che già un decennio è un lasso di tempo sufficiente alla ricezione e sedimentazione di una innovazione a livello lessicale o a livello semantico, quindi come accoglienza di una parola o come estensione di significato di una parola già esistente. Ecco, tenendo presente questo, dobbiamo constatare che molte delle forme indicate già allora da Alma Sabatini come corrette, quindi previste dal nostro sistema grammaticale, dopo 30 anni non sono ancora entrate pienamente nell'uso. Però si annoverano due grandi spinte al cambiamento. La prima, iniziata grazie agli studi di Alma Sabatini, riguarda la presenza, la nominazione, il trattamento delle donne all'interno della lingua. La proposta è di accogliere e diffondere forme già previste dal nostro sistema grammaticale, quindi non ci riferiamo a neologismi, non ci riferiamo a parole nuove inventate di sana pianta. Sono parole che almeno potenzialmente sono già presenti nel nostro sistema grammaticale o che magari sono già anche state usate in passato, poi sono state accantonate, ma si possono recuperare. Quindi forme già previste dal nostro sistema grammaticale, andando a sabotare il maschile cosiddetto universale o sovraesteso. Viene dato al genere grammaticale maschile un valore appunto universale, neutro, ma questo valore viene dato per motivazioni storiche e culturali, non su basi linguistiche. Questa spinta sta avendo successo, il cambiamento ormai è avviato ed è estremamente lento, ma la strada è segnata, anche grazie all'assiduo e tenace lavoro di molte studiose che con linee guida, incontri, iniziative hanno sollecitato e continuano fortemente a sollecitare innanzitutto le istituzioni perché fungano da esempio nel proporre una comunicazione non sessista. E siccome siamo almeno virtualmente a Torino, voglio ricordare le linee guida del 2015 dell'Università degli Studi di Torino, un approccio di genere al linguaggio amministrativo, e citare anche la carta di intenti Io parlo e non discrimino, presentata dal Comune di Torino nel 2016, collegata alla campagna Donne con la A di Se non ora quando Torino. Ma ho parlato di due spinte, questa è la prima. La seconda spinta verso un cambiamento della lingua è invece decisamente più recente e tocca anche un livello più profondo della lingua perché riguarda non il piano lessicale semantico, non il piano quindi delle parole, del significato, piani sui quali il cambiamento è tendenzialmente più facile e dovrebbe essere anche veloce, ma punta a un livello più profondo, quello morfologico. Avrete sicuramente sentito parlare di asterischi, u, schwa, tutti i simboli e suoni che sono usati da alcune persone come morfemi flessionali accanto a quelli già presenti, così che posso avere una scelta più ampia e accanto a maestra, maestro, potrei dire anche maestre. Queste sperimentazioni, che non riguardano peraltro, è solo la lingua italiana, ma le ritroviamo anche in altre lingue europee, come ad esempio cito lo spagnolo, l'inglese, lo svedese, nascono dalla necessità di superare il binarismo di genere codificato dalla lingua e dalla società. Mirano insomma a rendere la lingua uno spazio in cui possano trovare accoglienza ed espressione tutte le soggettività presenti nella nostra società. E per quanto possano apparire bizzarre e di difficile applicazione, posto che comunque ci sono gruppi che le usano con successo da anni, queste strategie linguistiche, più che fornire risposte, pongono domande, segnalano istanze e sollecitazioni. Non ci sono ancora pratiche linguistiche definitive e condivise dalla maggior parte della comunità di parlanti, ma non si può ignorare che ci siano movimenti tellurici in atto. E noi siamo nella lingua, siamo dentro a questo paesaggio in continua, per quanto lenta, trasformazione. E a questo punto possiamo decidere se restare a guardare o partecipare attivamente a questo o quel cambiamento, se sostenere una spinta o un'altra, con la consapevolezza che a decretare il successo delle innovazioni linguistiche sono proprio le persone attraverso le loro scelte comunicative. Vorrei concludere questo mio intervento con un invito. Prestiamo attenzione a come trattiamo le persone nei nostri atti linguistici, a come le nominiamo, a come le descriviamo, dentro a quali ruoli più o meno stereotipici le narriamo, soprattutto se per lavoro o per passione scriviamo articoli, comunicati, post, storie, tanto più se ci rivolgiamo a un pubblico ampio. Prestiamo attenzione però anche a come noi ci nominiamo, a quali parole usiamo per presentarci, soprattutto se abbiamo visibilità, se magari parliamo da un palco o dalle pagine di un giornale o da una agorà social. Dobbiamo agire linguisticamente con la consapevolezza che attraverso il nostro esempio possiamo dare più forza al diffondersi di comportamenti linguistici non discriminatori. Prestiamo attenzione alle parole, non diamole per scontate. Interroghiamoci sul loro significato, sul loro valore linguistico e sul loro impatto sociale. Perché le parole agiscono sulla realtà, hanno ricadute nelle vite delle persone e non solo delle persone adulte di oggi, ma anche delle persone che saranno adulte domani. Le parole agiscono anche fortemente, oggi non l'ho ancora nominato, ma è importante farlo, agiscono fortemente sull'immaginario. Le parole di oggi ci indicano il nostro futuro, tracciano una direzione. Sta a noi scegliere se andare nella direzione della discriminazione o in quella dell'eguaglianza, se considerare la lingua come luogo di privilegi a cui faticosamente poter accedere rinunciando a un pezzo di sé, o se considerare la lingua per quello che dovrebbe essere, uno spazio simbolico e politico, aperto e rispettoso delle differenze. Io spero di non avervi annoiato troppo, vi ringrazio davvero per la vostra attenzione e invito a seguire ovviamente anche tutti gli altri incontri proposti dal Circolo dei Lettori all'interno di questa serie di appuntamenti dedicati alla lingua italiana. Vorrei salutare il pubblico che ha seguito la diretta e ringraziare ancora per avermi dato l'opportunità di fare questo intervento. Grazie e buona serata.